che cazzo vuol dire che non capisci, dai. Dai, allora, è chiarissimo, aspetta. Il ritornello fa così. Salti, quando rappo io, tu salti. Quando rappo io, tu salti. Quando rappo io, tu salti. Tu salti, tu salti, salti. Quando rappo io, tu salti. Quando rappo io, tu salti. Quando rappo io, tu salti. Tu salti, tu salti. Come dice Teyaman, attento, attento, dico lo spavento. Io ti avverto prima, sono l'amico che ti avvisa, che ti dà una chance, una via d'uscita. Se vuoi scappare fallo ora o sarà tardi. Vai, non ascoltarmi, no, tappati le orecchie e fai la la la la la la la. E non pensarmi mai più, ma più lo fai, più richiami tu. Vuoi l'impatto e la paura, gli occhi sgranati, gli scatti di nervi, gli sbalzi, lo shock. Vuoi sensi di vuoto e i sudori ghiacciati. E con sta traccia arriva la minaccia. Vieni vicino, vieni. Non fare l'indovino se non sai, sai. Mi incuriosisce quello che dirai. Salti, salti, salti. Quando rappo io, tu salti. Quando rappo io, tu salti. Quando rappo io, tu salti. Tu salti, tu salti, salti. Quando rappo io, tu salti. Quando rappo io, tu salti. Quando rappo io, tu salti. Tu salti, tu salti.